me, non sentirai a me, ma fa come non senti a te. Vabbè, malato, eh? Meno male che hai capito, c'ha le orecchie lunghe e quindi pende, ti fa quanto una parte. Finocchio, eh? Sì, sì, finocchio, eh. Vai! Meno male che adesso è sparito, mica è crepato. Preso il vizio di prendere dal culo. Sì, ma proprio c'è la per passione lo fa, ecco. Meno male che è crepato lui, quel pederasta. Il ponte, te l'ha messa dietro. Sì, sì, a far come, gliel'hanno messa dietro. Come, gliel'hanno messa dietro. Gli ha fatto male, Duccio. No, gli ha fatto male, gli ha fatto piacere. Cosa gli ha fatto male? Che è abituato. Si è preso il vizio adesso. Sì, si è preso quel vizio, ma sa da quando c'era, da piccolino. Non ti sento bene, scusa. Come? Non ti sento bene, scusa. Adesso come mi senti, bene? Adesso sì. Ecco, ti stavo dicendo che non si è preso il vizio, proprio c'era di abitudine. Ma dove ti trovi? A me sei sentito. Sì che ti sento. Chi è Falcone? Falcone è un paraculo. Finocchio è un paraculo. Vedi, non sono io, sono che te lo dicevo. Falcone è un paraculo. Tu come ti chiami? Io? Sì. Non mi chiamo io, mi chiamano gli altri. E come ti chiamano gli altri? Zinzula. A lui sei? Mendola. Zinzula, Zanzara, mi. Zinzula si chiama, Zinzula. Dove vai, Zinzula? Come? Come vai, Zinzula? Dove vai? Come mai? Ma un nominativo come l'altro, non c'è niente di particolare. Forse perché sono piccolino, anche, capito? Ma che stavo? Piccolino quanto? 180 kg? Non ho capito. Piccolino quanto? 180 kg? 62. A testa? Uno è 72, uno è 73, dipende. 62? Non ho capito chi sei, l'amico, Non ti ho capito, arrivo in basso, Zanzara, scusio. Zinzula, ci sei cavato, allora. Zinzula, Zanzara, non è lo stesso. Sì, è lo stesso. Ah, allora, l'amico, io non ho capito chi sei, no, aspetta, non stavo dicendo a te. Non stavo dicendo a te quello del mercato, a un altro. Non ho capito chi sei, eh.